Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, io sono Stefania e sono qui per parlarvi del popolo di Barabba, cioè non del popolo di Barabba, questo è il titolo che ho dato al mio palinsesto, però ecco il senso del popolo di Barabba ve l'ho già un attimino spiegato nella prima puntata. Il mio percorso è quello, il percorso educativo, è un percorso che mi rendo conto oggi dopo N puntate, non so quante ne sono state fatte, non mi ricordo, è parecchio faticoso. Perché? Perché gli esempi da poter portare, almeno per me, sono davvero tantissimi e mi sto rendendo conto che tutto il mondo, ancora di più mi sto rendendo conto che tutto il mondo gira intorno a quella parolina educazione. Penso che un adulto debba prestare particolarmente attenzione a questo. Parlavo prima con i miei amici qui di Radio Big World che una dote innata, necessaria per una buona educazione è l'empatia, e quella non la impari, quella o ce l'hai o non ce l'hai. L'unica cosa che puoi fare, te persona che puoi avere questa dote, è quella di perfezionarla, di formarti, di fare un percorso che ti consenta di essere un educatore migliore. Io lo dico a me stessa prima di tutto, io ora sono nonna e quindi in quanto nonna mi piacerebbe essere una nonna, non dico esemplare perché con i miei pregi e con i miei difetti, però una nonna attenta là dove sbaglio, rendermi conto che sbaglio e quindi aggiustare il mio sbaglio, soprattutto essendo con i miei nipotini autentica, ecco, senza nascondermi niente, se sbaglio dire oi oi, ho sbagliato, vediamo come si può rimediare. Partendo da questo presupposto mi vengono in mente due o tre cose. Il libro di Bambini all'inferno e i bambini profughi nei campi profughi, i bambini siriani che scappano dalla guerra nei campi profughi. Bambini all'inferno è un libro che parla di bambini palestinesi confinati nella striscia di Gaza. Ho saputo che la striscia di Gaza è un territorio grande indicativamente quanto la provincia di Siena. E in questo territorio vivono oltre 1 milione di persone. Quindi pensate voi le condizioni in cui queste persone, in questa striscia minuscola, devono vivere, possono vivere. Come possono vivere? Bambini all'inferno, bambini che sono costretti a subire la guerra e atti di violenza ogni giorno. Questa è una realtà ormai da 1948, anche da prima, però così palese, così aperta al mondo, è dal 1948 che esiste questa situazione. Quindi bambini di 3 generazioni, parlo, sì, sono circa 60 anni, quindi 3 generazioni che hanno vissuto, subito e conosciuto solo la guerra. Quindi la mia domanda è, come possono questi presidenti pensare e ipotizzare a azioni di pace con una sola stretta di mano e pensando di così fare dei summit parlando di questo e basta, quando 3 generazioni, oltre 3 generazioni, hanno vissuto, subito la guerra. In questo libro ci sono le testimonianze dei bambini. Quindi perché bambini all'inferno? Perché sono testimonianze davvero angoscianti, bambini che hanno visto il babbo e la mamma uccisi, che hanno visto persone a loro care decapitate, bambini che hanno visto smembrati i corpi dei loro cari e bambini che crescendo la loro unica aspirazione qual è? Quella di vendicarsi. Quella di vendicarsi, e gli possiamo dare torto? Io non me la sento, a meno che questi bambini non siano accolti come qualcuno fa in ambienti e con persone che sanno dare loro e sanno fare metabolizzare loro quegli orrori che hanno subito. Se si persegue questo cammino, forse, non so, questo però è il mio punto di vista, forse potremmo ottenere qualcosa, ma se non si percorre quello, tra 60 anni saremo ancora qui, spero, a parlare. Da una parte mi dispiace, da una parte spero, perché se non siamo qui siamo perduti, a parlare di questa guerra. Gli altri bambini, parallelamente, sfuggono da una guerra, vengono messi nei campi profughi e la vita nei campi profughi di questi bambini è un altro inferno, il solito inferno vorrei dire, bambini che subiscono abusi, che stanno nella sporcizia, che stanno nella povertà, nelle malattie. E se anche qui non viene fatto un percorso di accoglienza di questi bambini, ci ritroveremo poi adolescenti e giovanotti che aderiscono all'ISIS e che fanno poi quello che fanno. Ecco, questo è il cerchio, secondo me, che dovremmo prendere in considerazione. Ma i nostri politici che cosa fanno? Questo lo rimetto a voi, perché la cosa è talmente comica sotto questo punto di vista che non mi va neanche di commentarla. Noi adulti dovremmo pensare a questo, dovremmo pensare di riprenderci il mondo in mano, cercando di essere più preparati, più informati e non superficiali e approssimativi come purtroppo molti lo sono. Potrei fare davvero tanti altri esempi, ma me li riservo per le prossime puntate. Queste ovviamente, cari amici, sono delle mie riflessioni. È ovvio, io alcune volte ne parlo con tanta, come dire, enfasi, come se fossero delle realtà, mi hanno accusato anche di questo, come se fossero delle realtà assolute. No, assolutamente, non voglio far passare questo concetto. Sono delle cose che io guardo, vedo e sulle quali poi mi faccio una mia opinione e le sto condividendo con voi. Certo è che se qualcuno ha voglia di dialogare con me su questi fatti, magari mi farebbe davvero tanto piacere, così almeno potremmo confrontarci su temi che sono davvero, a mio parere, sempre tanto tanto importanti. In contrapposizione a quello che vi ho detto, c'era un altro aspetto, sempre legato ovviamente all'educazione, però di tutt'altro genere, ma che rende l'idea di come invece la nostra società, cioè dove l'attenzione è mirata. Non so se ci avete fatto caso, ma da noi sempre più bambini vengono utilizzati per fare la pubblicità. Ora, voi mi dovete dire se questa è una cosa che un adulto, sapendo quello a cui va incontro quel bambino che fa la pubblicità, è accettabile. Il bambino che fa la pubblicità è un bambino che poi viene enfatizzato, viene visto, viene applaudito. Gli vengono date delle false aspettative, se così si può dire, di quello che poi sarà un domani. Ecco, anche questo, l'ho trovato una cosa giusta? Io la trovo una violenza. Comunque, i bambini non dovrebbero fare pubblicità, metteteci dei cartoni animati. Ma quello che più mi fa pensare è com'è possibile che una società evoluta come ci pensiamo di essere noi, io non la penso così, come pensiamo di essere, possa usare questi strumenti per venderci i prodotti, possa usare i bambini per convincerci a vendere prodotti, ad acquistare prodotti. Beh, potremmo parlarne qui dei giorni interi. Vi prego, contattatemi, ne sarei davvero tanto felice. Qui io concludo, vi ringrazio dell'ascolto e della pazienza che avete avuto e alla prossima puntata. Un saluto a tutti da Stefania.